buongiorno a tutti, do il benvenuto e un saluto ai giornalisti presenti per questa conferenza stampa, ai cittadini okay, grazie mille, Nazareno, grazie. A tutti gli amministratori che fino a qualche settimana fa insomma ha formato la squadra di governo del comune di Sibri e che oggi comunque continuano facendo fulcro attorno al Partito Democratico, che è il perno, è stato il perno dell'amministrazione Comignani, continuano e continuiamo a portare avanti quelli che sono i progetti e i programmi che appunto erano in corso di realizzazione e di, in corso di spedamento e completamento da parte dell'amministrazione Comignani. Quindi questa conferenza stampa che abbiamo convocato come Partito Democratico questa mattina è proprio per dare continuità a questi progetti e in particolare per dare il giusto risalto a due particolari progetti che in questi giorni proprio hanno trovato definizione. Uno è la richiesta di completamento della pista ciclabile della parte centrale di Sibri e l'altro è la richiesta a RFI, a Rete Ferroviaria Italiana, per la concessione di un tratto dismesso di ferrovia, il cosiddetto binario morto. Per quanto riguarda la pista ciclabile, voglio solo ricordare che noi abbiamo ereditato dall'amministrazione Vallescura un progetto di massima finanziato con appena 500.000 euro. Appena insediati abbiamo fatto richiesta per aumentare questo importo perché ci siamo subito resi conto che 500.000 euro avremmo fatto veramente poco e grazie all'interessamento qui dell'assessore Dino Pepe che saluto insieme al consigliere regionale Monticelli, piccola missione, e al sindaco Francesco Comignani ovviamente. Dicevo, grazie all'interessamento dell'assessore Dino Pepe, appena insediati abbiamo ottenuto altri 500.000 euro per far sì che la pista ciclabile prendesse forma e vita nella parte a sud e nella parte a nord di Sibri, cosa che nella parte a sud vedete già completata, realizzata, nella parte a nord invece con una variante che era in corso di approvazione per alcune situazioni che si erano venute a creare, sarebbe stata, ma sarà, mi auguro, completata e resa fruibile a tutti nel giro di poco. Restava quindi in sospeso la parte centrale di Sibri, che come sappiamo è la parte più difficile da dover gestire per il tracciato della pista ciclabile e che richiede uno sforzo finanziario non indifferente. Quindi proprio due giorni prima che qualcuno decidesse che dovevamo tornare a casa, non l'hanno deciso i cittadini, piccolo inciso, due giorni prima avevamo proprio presentato un progetto alla regione per far sì che potesse essere inserito questo progetto nell'ambito dei fondi gestiti dalla regione Abruzzo e poter quindi completare il tratto centrale con la pista ciclabile e con l'occasione ovviamente anche dare un nuovo volto a tutto il lungomare di Sibri. Quindi questa cosa, poi ovviamente ci diranno meglio gli esponenti regionali, questa cosa è andare avanti, come è andare avanti anche il discorso per la richiesta di concessione a RFI del tratto dismesso della linea ferroviaria. Quest'idea nasce da una felice intuizione di alcuni cittadini, in particolare di Lucio Giardini, che abbiamo voluto qui sul tavolo di rappresentanza, e questa felice intuizione praticamente prevede di poter utilizzare a beneficio della cittadinanza un tratto ferroviario che grosso modo va dall'ufficio postale, quindi Scuola Pascoli, fino al sottopasso dell'Abruzzo Marina. Quindi è un tratto di circa un chilometro che può essere utilizzato come alternativa alla viabilità del lungomare e per il recupero di diversi parcheggi. Poi magari gli assessori potranno tecnicamente anche spiegare meglio. Quindi abbiamo avanzato questa richiesta a RFI per innanzitutto la possibilità di averla in concessione e la possibilità, sarò presentato quindi un progetto per sviluppare una viabilità carrabile su questo tratto. E proprio in questi giorni c'è stato l'ok da parte di RFI per la concessione e l'utilizzo di questo tratto. Quindi è giusto, abbiamo ritenuto giusto oggi convocare questa conferenza stampa per darne notizia in continuità con quello che era che erano i progetti, i programmi appunto dell'amministrazione Comignani. Quindi è giusto che la collettività venga informata di quello che erano i progetti, i programmi e di quello che si stava facendo. Ora avremo modo di sentire meglio nei dettagli, quindi passo la parola al sindaco Comignani che chi più di lui in prima persona ovviamente queste cose le ha vissuto. Poi a seguire Luciano Monticelli e l'assessore, il consigliere regionale Luciano Monticelli e l'assessore regionale Gino Pedro. Grazie. Buongiorno a tutti. Dunque noi avevamo, non è che si potessero fare tante cose, perché per fare le cose ci vogliono soldi, quindi bisognava trovare i soldi per poter realizzare le opere urgenti sul nostro territorio. Ci eravamo ripromessi di mettere mano a tre cose: la riqualificazione del villaggio del Fanciullo, la riqualificazione del lungomare e quindi il completamento della parte centrale della pista ciclabile, poiché con i fondi che avevamo non era possibile fare tutta l'operazione, anche se l'operazione poteva essere fatta molto meglio, perché se mi chiedete che cos'è che non ti piace dell'amministrazione che hai lasciato, la pista ciclabile poteva essere fatta meglio. Quindi completamento del lungomare, inoltre cosa molto importante, su segnalazione di questo gran bel amico, signore, amico Lucio Giardini, e con lo stuzzico quotidiano di un altro nostro concittadino che è Pino Di Febo, si era attivata la possibilità di recuperare il terzo binario. Nel lontano 2015 facemmo un primo incontro con l'ingegner Morellino, che molto gentilmente venne, insieme al consigliere Monticelli, ci recammo nel tratto della stazione, e prese piede quel sogno. Quindi dicevo tre cose. Lo scorso anno, verso prima di Natale, abbiamo avuto un incontro con il governatore a Silvi, dove abbiamo ufficializzato che l'amministrazione di Silvi voleva mettere sul piatto questi tre importanti punti affinché la regione ne prendesse carico e quindi finanziasse le nostre richieste. Una sera, eri presente anche tu Luciano, abbiamo fatto questo incontro e da quel momento ci sono stati altri incontri per continuare a lavorare su queste tre cose. Oggi in questa conferenza stampa stiamo annunciando che la regione ha messo il comune di Silvi nel master plan, quindi chi da questo momento in poi, chi verrà, avrà i soldi, la regione si è fatto carico di questo impegno per completare il tratto di pista ciclabile e quindi di riqualificare il lungomare. Quando parlo di riqualificazione del lungomare, parlo di asfalti, di marciapiedi, di aiuole, ma la cosa più importante è che la risposta di Ferrovie in maniera positiva a concederci di poter sfruttare, quindi togliere il binario morto e poterlo sfruttare con determinate condizioni che loro ci hanno dato, è una cifra irrisoria di canone annuo che è circa 1.700-1.800 euro, fa sì che questi siano due progetti sinergici tra loro, perché sono stati presentati, cioè sono state dette varie idee affinché cosa ci si possa fare o non fare se recuperiamo il terzo binario, ma va da solo che Silvi ha bisogno di una viabilità alternativa. Si è sempre parlato da anni e anni e anni di senso unico, forse per quel tratto è arrivato il momento di poter dire che si può fare anche un senso unico. Adesso chi verrà vedrà, perché adesso c'è la possibilità di poter portare avanti questi lavori. È arrivato il momento magari anche di poter far esprimere i cittadini su che cosa ci si voglia fare con il recupero del terzo binario. Quindi sono stati portati avanti questi due importanti problemi, sono state date delle risposte importanti e di fattibilità. Aggiungo anche che per la riqualificazione del villaggio del Fanciullo sono stati dei tavoli aperti, abbiamo fatti tanti incontri, poiché all'inizio c'erano troppi enti che mettevano bocca su quel tratto, su quell'area. E ora è arrivato anche al punto di dire che se non ci arrivava immediatamente una risposta, stiamo parlando di qualche mese fa, era anche disposto a ricorrere alla possibilità di fare un'ordinanza, quantomeno di dire a chi mette a voce in capitolo su quella zona, di fare un'ordinanza per la messa in sicurezza, perché non è più possibile vederlo in quel modo là, e è sotto gli occhi di tutti che è anche pericoloso. Quindi anche quel tavolo è aperto. Grazie. Grazie Sindaco. Sì, ha giustamente ricordato Francesco che a fine anno abbiamo avuto un incontro con il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, insieme al consigliere Luciano Monticelli, proprio per mettere sul tavolo della Regione queste tre importanti iniziative, questi tre progetti che premono alla cittadinanza di Silvi, e in particolare anche sul villaggio del Fanciullo, cosa che stiamo ancora aspettando delle risposte dalla Regione. So che c'è qualche problema in qualche ufficio, poi magari il consigliere Monticelli ci potrà dire anche qualcosa in merito. Sul villaggio io voglio solo ricordare che, nonostante tutto, ed è una cosa che abbiamo tutti a cuore, il comune di Silvi non è proprietario di quell'area, questo bisogna dirlo perché per correttezza, altrimenti possiamo fare voli pindarici bellissimi su che cosa vogliamo realizzare in quell'area, ma se prima non risolviamo la questione delle competenze non ne usciamo, non potremo mai purtroppo realizzare nulla. Quindi passo la parola al consigliere regionale Luciano Monticelli. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi chiedo qualche minuto in più perché vorrei parlare, innanzitutto vengo qui come rappresentante di un partito, ma vorrei parlare un attimo anche come rappresentante istituzionale, perché vengo come consigliere regionale insieme a Dino, cui ha attività specifiche, perché il master plan lo gestisce, continua a gestire la Regione Abruzzo, ma anche quello del terzo binario, consentitemi, anche come dipendente delle Ferrovie dello Stato, non è un binario morto, è un ex binario, perché le Ferrovie dello Stato hanno fatto, hanno spostato sul secondo binario quello di libera circolazione, e quindi hanno lasciato libero. E questo chilometro, perché le ferrovie, poi vi farò e vi dirò alcuni passaggi di una lettera ufficiale dell'ingegnere Morellina e dell'ingegner Carnevali, in cui chiedono al comune di attivarsi per una procedura di contratto. Io l'altro giorno, per rispetto delle istituzioni, perché come ho detto prima il trasporto pubblico locale, quello che incide anche per i tanti lavori che la regione ha messo sul master plan, che per le Ferrovie dello Stato, sono stato a trovare il commissario prefettizio anticipandogli che RFI inviava con raccomandato ricevuto di ritorno, ecco perché probabilmente non l'aveva ancora ricevuto, ma credo che lo seguirà anche in anticipazione via mail, l'ok della cessione del terzo binario al comune di Silvi. Io non entro nel merito di quello che vuol fare, poi sarete voi a decidere l'amministrazione in cui deciderà che cosa fare, che comunque dà l'ok definitivo a questa concessione del terzo binario, lo rimette nelle mani della comunità. E io, permettetemi, avendo fatto il sindaco a Pineto, credo che l'idea del gruppo di Lucio Giardino, di Febo, Pino e altri che mi contattarono proprio quel giorno, io lo ricordo, Pino mi contattò e dice: perché non intervieni in questa discussione del terzo binario? Io, essendo un amministratore, uomo di partito, uomo che sei in mezzo alle persone la mattina e la sera, non mi feci sfuggire tra virgolette, ma perché credo che il terzo binario per Silvia è lo ritengo una delle opere pubbliche più importanti, riuscita a smantellare, anzi se riuscita a smantellare poi vi dico qualcosa in più, perché rimette alla propria disponibilità la cittadinanza di quasi un chilometro, credo che se non ricordi male si parla di circa 6.000 metri quadri di cessione, poi su questo comunque possiamo anche lavorarci, noi ci lavoriamo perché con Morellina abbiamo ottimi rapporti, ci vediamo settimanalmente, quindi non è quello il problema, però cede al comune, quindi adesso in questo momento al commissario, facendo una serie di richieste, passando da 1.800 euro di canone annuo mensile per 6 anni, poi moltiplicati per gli anni con i contratti commerciali, chiede per esempio lo spostamento della caretta telefonica, lo spostamento anche del tronchino, e io l'ingegnere Morellina ho detto anche aiutiamo questa amministrazione comunale perché spostare, togliere i binari per l'azienda RFI sono 2 giorni di lavoro, quindi su questo l'impegno che io prenderò insieme al commissario che si è l'altro giorno anticipandogli questa cosa ha dato ampia disponibilità facendo anche una battuta che è una realtà, dice con me fai prima perché lui rappresenta il consiglio, la giunta e il sindaco, quindi decide in maniera veloce. Io credo che questa riunione di questa mattina, il fatto di una conferenza stampa, aiuta anche il commissario perché non si trova isolato, perché sa che la cittadinanza su questo, che è partito dal basso, non è partito né da me, me lo permette il sindaco, neanche dall'amministratore comunale, ma è partito quello che a volte si dice la democrazia partecipativa, la democrazia partecipata. Beh, adesso io sfido chiunque, se qualcuno che già su Facebook comincia un po' a contestare, dire anche qualche volta lo comprendo pure perché anche l'aspettore tecnico, anche qualche corbelleria, non si può dire facciamoci una linea per i passeggeri, il terzo binario o il secondo binario avevano una lunghezza tale che era un binario di precedenza, il secondo binario a Silvi, perché ci ho lavorato anche per molti anni quindi conosco benissimo quell'impianto, che serviva per far cedere il passo da un treno locale a un treno più veloce, venendo meno alcune questioni tecniche adesso non sto qui a spiegarvi, il terzo binario non lo utilizza più, lo si può smantellare e viva Dio un'amministrazione comunale, dei cittadini che propongono all'interno di una città un sistema viario che può essere parcheggio, piste ciclabili, viabilità, poi lo decidete voi, a noi non interessa, significa ridare un ampio respiro a questa viabilità che è soffocata perché negli anni 60, negli anni 70 l'urbanizzazione sconsiderata ha fatto sì che in quegli anni si costruisse un po' alla secca, però ormai questo c'è, e recuperare quest'area è notamente importante. Cosa occorre adesso? È normale che la regione Abruzzo sta dando col master plan tanti soldi, voi immaginate che sta partendo sulla progettazione della fermata dedicata davanti all'aeroporto di Pescara, che sarà, quindi voi immaginate, col treno, con il trasporto pubblico locale, si arriverà alla stazione, all'aeroporto di Pescara e poi con un rullo camminante, lì non mi ricordo come si chiama, comunque si può arrivare all'altezza dell'aeroporto. Nastro trasportatore. Si sta facendo l'ultimo miglio dalla stazione di Porto di Vasto, che collega al porto di Vasto, si sta facendo la tangenziale da Prato alla Peligna che va all'Aquila, riducendo circa di mezz'ora il tratto per la linea ferroviaria che va da Pescara all'Aquila. Quindi la Regione Abruzzo nel campo, poi soprattutto con Luciano Alfonso che è il massimo esperto delle infrastrutture, noi stiamo lavorando anche sulla fermata di Martinsicuro, perché Martinsicuro è l'unica città di mare, credo in tutta linea di Adriatico, non avendo una fermata, poiché ho avuto esperienza da quando ero sindaco, anzi da quando ero consigliere di minoranza a Pineto, abbiamo fatto la fermata di Scerra di Pineto, gli amici di Martinsicuro ci hanno chiamato per aiutarli a far sì che si possa realizzare questa fermata, ci sta lavorando, ma io ho partecipato a una telefonata a Gentile, che è il direttore, che è l'amministratore delegato dell'RFI, ha detto: guarda, dobbiamo mettere in campo e stiamo lavorando sul terzo binario di Silvia. Hanno dato la massima disponibilità. È partito la lettera ufficiale, di cui anche c'è anche il protocollo, non è che stiamo dicendo cose non vere, di cui, come ho detto prima, chiedeva, oltre al canone, oltre alle fiduciarie bancarie, oltre ad alcune polizze, chiede appunto la possibilità di togliere il tronchino, di togliere i binari e di fare, per esempio, da alcune prescrizioni importanti che non potevano essere meno. È normale che il secondo binario, se quel terzo binario viene tolto, il secondo diventa è di libera circolazione, voi immaginate che qui transitano treni a 130, 140, 150, chiede la possibilità, no, il dovere, siete obbligati a farlo, il muretto di recinzione di 60 cm di cemento armato più altri 20, altri un metro, sono prescrizioni di cui non si può derogare, sono prescrizioni di cui non si prescinde, perché noi abbiamo a che fare sia con la linea aerea, quindi con l'elettricità, ma abbiamo a che fare con i treni a lunga percorrenza, con i treni veloci. Perdonami, sì. Ma il discorso dei pannelli fono a... Quello dopo lo vediamo, intanto loro ti danno le prescrizioni e tu lo devi fare, okay, poi lo fai come meglio credi. Quindi sono prescrizioni, e io lo ripeto ancora per l'ennesima volta, c'è addirittura anche l'imposta di bollo, il 50% del contratto che deve essere firmato. Quindi stanno inviando al comune di Silvi, Pino Di Febbo, lo dico a te, spettabile comune di Silvi, servizio patrimonio, opere pubbliche, tecnico manutentile, Viale Po, Silvi Marino. Quindi questa è una lettera ufficiale in cui dite: adesso fate quello che dovete fare, che è scritto qui. Io al commissario. Ho le mani io per primo, perché è una cosa bellissima. Io al prefetto, l'altro giorno sono andato a parlare con queste due cose che avevamo. Lui ha dato la massima disponibilità, ma io seguirò perché, primo, perché sono metà pinetese e metà silvarone, ecco. Secondo, perché mi tocca, perché è il mio dovere, mi avete votato. Terzo, perché credo, ho sempre creduto quando ero sindaco, che quest'area da Atri, Silvi e Pineto è l'unica area, non si discute. E qui io vi chiedo, quando quest'estate faremo la festa, perché io ho bisogno di mezz'ora, perché mi devo sfogare anche su alcuni personaggi che vivono anche in questo paese, che sono di documento, e questa è la dimostrazione, perché mandare a casa un'amministrazione di cui non credo che con Mignani si possa attribuire malefatte, interventi urbanistici che hanno massacrato questa città, io credo che mandare a casa un'amministrazione senza motivo, apparentemente, per quello che posso conoscere, poi ci possono essere anche tanti altri motivi, ma non si manda mai a casa i cittadini, perché mandando a casa ha mandato a casa i cittadini. E lasciandoli fuori, voi non potete immaginare che ho fatto il sito che mancava, pur a piedi era caduto un anno prima, e ho dovuto lavorare anni e anni per recuperare il tempo perduto. Allora io credo che noi amministratori pinetesi, silvaroli di quest'area, che sono alla Regione Abruzzo, insieme a Dino Pepi, insieme al Presidente della Regione, dobbiamo lavorare affinché vi accompagni. Poi è normale che noi facciamo la battaglia per rivincere l'elezione a Silvi. Su questo non è che noi lo vogliamo dare a qualcuno, perché io credo che le idee migliori vanno aiutate, vanno votate, appunto, per essere poi messe sul campo. Quindi su questo è una partita che adesso noi lavoreremo, manca l'amministrazione, ma io interagirò anche con voi. Quindi su questa problematica il sottoscritto, insieme a Luciano Alfonso, continuerà a avere rapporti con l'amministratore, con il commissario prefettese. Quando siamo venuti qui a Silvi, noi abbiamo firmato un documento, sindaco, io questa mattina non l'ho ritrovato perché mi mancava Andrea lì all'ufficio di presidenza, e noi chiedevamo gli amministratori, scusatemi, a volte mi faccio prendere come se io fossi un amministratore di Silvi, chiedevano tre cose: il terzo binario, la pista ciclabile e il fanciullo. Ci si sta lavorando, però è successa una cosa, che l'ufficio tecnico del settore della cultura, l'architetto, ha avuto un infarto e è stato per un po' di giorni a casa, ma vi dico che sta lavorando, nonostante tutto sta lavorando a casa, perché è un impegno che ha preso e lo portiamo avanti. La pista ciclabile nasce anche con una serie di fortune, perché non era programmata all'interno del Masterplan, ma poiché Teramo ha rifiutato con una delibera di consiglio comunale 10 milioni per la funivia da parte di Teramo Centro all'università, il presidente, io ci vivo quasi tutti i giorni, sindaco, tu lo chiami, io ci vivo, e io la questione di sindaco l'ho tenuta sempre con il faraccio, ho detto guarda sindaco, ho detto presidente, hai preso un impegno con Silvi, l'ha preso anche con me, con Pinedo, quindi poi ci siamo un po' aiutati a vicenda su questo. Cerchiamo di mantenere l'impegno che hai preso alla comunità di Silvi, e vi posso garantire che io so anche la quota economica che c'è. Tutto questo, eravamo d'accordo, scrive la delibera, poi succede il patatrac, che il giorno eravamo a Isola del Gran Sasso, mi arriva la comunicazione circa un mese fa, guarda che è finito. Sì. Anche io ho preso il presidente e ho detto presidente, poi capisco lì l'amministrazione è caduta, però che facciamo? Questi soldi li ritogliamo, noi dobbiamo aiutare, perché noi dobbiamo comunque pensare ai cittadini, se quella è un'opera strategica per il turismo, per la comunità, Silvarola che vive tra una strada statale 16 e un lungomare che è anche difficile da penalizzare, che ha delle difficoltà di tipo viario, ormai antropizzato, ormai non può più avere degli spazi liberi. Questo 1.700.000 lasciamogli, non facciamo, perché per noi le richieste sono all'ordine del giorno, quindi accontentare un sindaco in carica che in un paese è preferibile da uno commissario, perché il commissario oggi c'è, domani no. Non c'è, il politico guarda anche un aspetto di tipo elettorale. Noi abbiamo riportato il ragionamento negli anni 80, 70, fino a qualche anno fa, in alcune amministrazioni queste cose capitano, cioè viene il commissario, 1.700.000 non te li do più e li mando un'altra parte. Noi abbiamo dovuto ragionare come consigliere, io eletto in questa zona era giusto che lo facessi, anche per la fiducia che mi avete dato. Il presidente il 9 maggio attua una delibera di indirizzi di cui a un certo punto sulla delibera stabilisce i completamenti delle piste ciclabili rubricate nel master plan troveranno copertura finanziaria nelle collocazioni economiche appositamente previste, ritorne a macro voce che presenta adeguata capienza come nel caso delle esigenze del completamento della pista ciclabile di Silvi Marino e di un altro comune. Il master plan vive tutta una sua dimensione, sono 77 progetti in Regione Abruzzo, adesso diventeranno qualcuno appunto perché Teramo ha rifiutato questi 10 milioni della cabinovia e noi l'abbiamo inserito dentro la Silvi. Si sta predisponendo già un'ulteriore delibera perché bisogna, e qui dobbiamo anche fare un altro ragionamento, lo farò con i rappresentanti del partito, bisogna trovare poi il soggetto attuatore. Sulle piste ciclabili, Dino, il soggetto attuatore erano le province. Poi nel momento in cui noi entrammo al governare la Regione Abruzzo dicemmo alla provincia, siccome voi siete in un momento di debolezza perché verrete chiusi, diamolo ai comuni. Il problema è che con il referendum di questo ultimo che abbiamo avuto le province hanno cominciato a riprendere. Però noi su questo ci possiamo anche lavorare chiedendo alla presidenza della provincia di Teramo di lasciare al comune comunque come soggetto attuatore della pista ciclabile. Però noi ci fermiamo qui perché io non faccio il politico o il sindaco assiduo o l'assessore, noi abbiamo altre competenze, però come ho detto prima il rapporto istituzionale tra la Regione Abruzzo e il commissario ci sarà, deve essere duraturo, deve essere di collaborazione, però ricordate cari cittadini che queste cose mandare a casa il commissario comunale non si fa, perché si fa danno a voi stessi. Grazie. Grazie al consigliere regionale Luciano Monticelli. Passo la parola all'assessore Dino Pepe che ci illustrerà per la parte di sua competenza che abbiamo fortemente stressato per la pista ciclabile in questi anni. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ovviamente ringrazio il segretario, il sindaco, gli amministratori di questa comunità che per 3 anni hanno servito con dedizione e passione questa comunità. Io davvero vi ringrazio, vi porto la solidarietà sia della regione sia del nostro partito, perché io penso che interrompere in maniera così irregolare, particolare, violenta, un'attività amministrativa e soprattutto all'inizio di una stagione turistica, poiché Silvia è soprattutto una città turistica, io penso che sia un danno soprattutto alla comunità, non al sindaco, non agli assessori, che anzi quest'anno vivranno un'estate molto più serena sicuramente, ma io penso che sia uno schiaffo che la comunità di Silvi non meritava, perché tutti i problemi possono essere approfonditi, possono essere discussi, si possono trovare anche soluzioni alternative rispetto a quelle proposte dal sindaco e dalla sua giunta, ma arrivare davanti al notaio è davvero, io penso, una cosa grave. Grave soprattutto per la comunità di Silvi, che certo non meritava e che forse nemmeno voleva. E da questo punto di vista la solidarietà totale viene da parte mia a voi, che in questi 3 anni avete servito la comunità di Silvi. Io ho fatto il sindaco di una piccola comunità di 1700 abitanti per 10 anni e so quanto un sindaco, quando un assessore, quando un amministratore si spende per la propria comunità, abbandonando la famiglia, le proprie attività molto spesso, proprio per dedicarsi a questa funzione fondamentale, perché fare il sindaco è una cosa meravigliosa, perché è un dono che si riceve dalla propria comunità. E quindi adesso lavorare in questo anno con il commissario, che sicuramente è un'ottima persona ovviamente, ma sicuramente la città ne risentirà. E poi questa comunità aveva anche espresso un consigliere provinciale e quindi aveva anche l'opportunità ulteriore di legarsi alla provincia così lontana da Silvi, a volte così lontana. E così anche le relazioni ovviamente strutturate con la provincia, con Luciano Monticelli che ovviamente abita qui a 2 passi, ma con noi. Io ho avuto modo in questi 2 anni di essere chiamato molto spesso dal sindaco, dagli assessori, da tutti voi, affinché la regione fosse presente su questo territorio. Io ricordo tra le prime riunioni del mio assessorato sul cicloturismo la vicenda della pista ciclabile di Silvi, con un primo finanziamento all'interno del back to cost di 500.000 euro, e sostanzialmente quelle 500.000 euro su una città come quella di Silvi, in confronto agli altri finanziamenti delle altre cittadine sorelle della costa, era ben poca cosa. E io ricordo l'impegno vostro, anche la fatica di arrivare nei tempi stabiliti dai fondi FAS, il sindaco Vito e gli altri, a correre per fare in modo che quelle risorse non venissero sciupate. E quindi la progettazione preliminare molto debole, e poi il lavoro vostro per arrivare alla progettazione definitiva, esecutiva, alla fase di appalto, l'aggiunta delle 450.000 euro ulteriori, quindi arrivare a 950.000 e presentare una progettazione dignitosa, ma sicuramente insufficiente. E da qui l'impegno ovviamente forte di Luciano Monticelli e anche nostra con il Presidente per cercare una soluzione possibile per completare questa infrastruttura turistica e non solo per la città di Silvi. E quindi all'interno di questa rimodulazione dei fondi derivanti dalla seggiovia di Teramo, 1.700.000 a disposizione di questa comunità per completare tutta questa struttura. E anzi, io voglio sottolineare un altro aspetto. Benissimo, c'è stata questa vicenda triste, drammatica, ma ho notato negli amministratori o ex amministratori di Silvi una volontà forte di continuare ad impegnarsi per questa comunità, e di questo io vi ringrazio io, ma io penso che la comunità di Silvi si renda conto di questa vostra voglia di continuare a combattere per la vostra comunità. E quindi questo sollecitare continuo la provincia, la regione, in maniera particolare questi fondi, 1.700.000, sono arrivati anche e soprattutto perché voi continuate ad essere amministratore o ex amministratore responsabili verso questa comunità. E io penso che questo messaggio, anche alla conferenza stampa di oggi, sia un messaggio importante alla città, il vostro senso di responsabilità, che davvero va sottolineato. E questi fondi che sono arrivati con una delibera recente seguita in maniera millimetrica da Luciano Monticelli sul 1,7 milioni sia una risposta importante a questa comunità e soprattutto questa filiera di centrosinistra, del Partito Democratico, comune, provincia, regione, è una filiera che porta i suoi frutti e soprattutto si assume delle responsabilità importanti. Ma in questi due anni ovviamente con Silvi e il lavoro con Silvi è stato certo sulla pista ciclabile, perché seguiamo questa delega sul cicloturismo e ovviamente, come diceva Luciano, noi nel master plan abbiamo 60 milioni di euro sul cicloturismo. In questi anni abbiamo investito molto, oltre 35 milioni di euro, da Martinsicuro a San Salvo col Bike to Coast, si è realizzato tanto in provincia di Teramo, abbiamo oltre il 70% del percorso completato, mentre da Pescara in giù abbiamo una serie di difficoltà, ma da pochi giorni sono iniziati anche i lavori sulla pista dei Trabocchi, che è sicuramente tra le più suggestive del mondo, dell'Adriatico volevo dire. Ma noi ci crediamo molto su questa vicenda, tant'è che sui 35 precedenti abbiamo aggiunto 60 milioni di euro per completare definitivamente la pista ciclopedonale Martinsicuro-San Salvo, 131 chilometri di costa, 17 comuni coinvolti e 3 comuni e 3 province, proprio per dare un'importanza fondamentale all'economia della bici, perché c'è tutta un'economia e i paesi del nord Europa sono lì a testimoniare che questi investimenti poi portano risultati, soprattutto nelle comunità di mare, perché c'è un'economia della bici fortissima, fortissima, che noi dobbiamo inseguire e sostenere costantemente. Ma in questi anni abbiamo parlato anche ovviamente di area marina protetta, vedevo Leone Cantarini proprio qui. Scusa, venerdì sarà la conferenza per i 300.000 euro che abbiamo preso il torneo. Vedevo Leone Cantarini che ha seguito in questi anni le vicende dell'area marina protetta, ma non posso non ricordare anche gli investimenti fatti con i GAC, i gruppi di azione costiera, sia sulla Pineta del Pescatore e sia soprattutto sui due alaggi. Quelle sono state realizzazioni grazie ai gruppi di azione costiera della vecchia programmazione. Adesso abbiamo sviluppato la nuova programmazione del fondo FEAMP, che è il fondo sulla pesca, e l'Abruzzo rispetto alla programmazione precedente ha avuto 4 milioni di euro in più, da 14 a 18 milioni, e abbiamo finanziato i 3 nuovi GAC che in questa nuova programmazione si chiamano FLEG, e anche da questo punto di vista sia l'area marina sia il comune di Silvi sono stati protagonisti, poiché avete aiutato sia la partecipazione sia il partenariato. Il FLEG si è costituito con tutti e 7 i comuni della costa teramana insieme ad altri portatori di interesse per sviluppare progettualità e mettere in campo risorse che possono dare risposte all'economia del mare nel suo complesso. Volevo sottolineare, posso chiedere, anche per fare piccoli porti, attracchi? Beh, sicuramente all'interno del GAC si possono inserire, perché i quattro porti anche nel mare. Cioè i quattro porti regionali, i 3 regionali, quello nazionale di Pescara, sono finanziati con dei fondi specifici, ma diciamo lavori di questo genere sui porticcioli, esatto, turistici proprio possono essere inseriti all'interno delle programmazioni dei nuovi FLEG. Okay. Il comune di Silvi è parte integrante di questo processo, quello che ha sede a Giulianova, ma tutti e 7 i comuni della costa sono entrati, sicuramente Maria qualcuno ha seguito questa vicenda della costituzione del FLEG, che vuole essere un'opportunità ulteriore. Io mi fermo, ma volevo sottolineare questo aspetto fondamentale, che questo gruppo non si ferma sicuramente a servire la propria comunità, e io penso che la comunità apprezza ancora di più, nonostante non abbiate più responsabilità istituzionali, ma vi assumete la responsabilità di cittadini che credono fortemente al presente e al futuro di questa comunità. Grazie. Grazie all'assessore Dino Pepe. E prima della conclusione dei saluti, insomma, finali, magari, visto che è stato più volte nominato, un intervento, perché insomma, brevissimo. Da parte di Lucio Giardini, a nome... dacci un tentacolo. No, in breve dico solo grazie a tutti, grazie a chi oggi ancora insieme a noi insegue quelle piccole cose che possono fare grande Silvi, perché io penso che essere nati qui è già una grande gioia, no? Io ho modo di stare con degli inglesi che vengono spesso qui e ogni volta che tornano mi dicono: ma tu quando eri piccolo che facevi in un posto così bello? Cioè, già queste parole, no, sono lo specchio di ciò che noi abbiamo qui, basta che uno si guarda intorno. E mi chiedo come mai anche oggi, che ognuno c'ha modo anche da casa, senza avere tanti amici, di leggere, di informarsi, di rendersi conto di ciò che si potrebbe fare, di ciò che si vuole fare, ciò nonostante rema contro chi si impegna, rema contro chi ha delle idee, rema contro il fratello, forse anche con il padre, litigherà con tutti. Sono degli atteggiamenti ingiustificabili. Mi fa piacere che dello stesso avviso è l'onorevole Pepe, tutti noi qui ci auguriamo. Onorevole, sembra onorevole perché l'onore è un titolo dell'anima, non è un titolo che sta sulla carica. O hai onore o non te lo può dare nessuno, a parole. E quindi niente, io dico ancora grazie a tutti, inseguiamo questa prima cosa, facciamola subito, impegniamoci tutti, diamoci conforto e manforte e troveremo il modo di fare questa e tante altre cose. Grazie a tutti. Grazie a Lucio Giardini. Io direi che abbiamo già detto ma manchi di due cose. Allora, che abbiamo detto alla sì, ci arrivavo. Grazie Luciano. Giustamente la caduta dell'amministrazione di Silvi ha comportato purtroppo anche il decadimento del consigliere provinciale Linda Di Francesco, che avevamo appena detto a gennaio, e anche qui stava facendo un grande lavoro per Silvi, per il territorio di Silvi, ma anche del comprensorio, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione delle strade provinciali. Quindi è un ulteriore danno fatto alla nostra comunità. E poi invece voglio ricordare l'elezione all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, quindi del parlamentino del Partito Democratico a livello nazionale, di Maria Pacchione, quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore risorsa che abbiamo portato oltre i confini comunali a livello nazionale, ed è importante anche questo perché è un importante lavoro soprattutto di relazioni che poi verrà fatto e che porterà sicuramente benefici anche a Silvi. E poi mi ricordava anche l'assessore Pepe l'elezione di Silvia Flagella al GAC con il capofila Giulianova, credo, se non ricordo male. Insomma, questo per dire che questo gruppo di amministratori, questo gruppo che componeva la maggioranza Silvi, che non è solo Partito Democratico, lo voglio dire, ma il Partito Democratico è appunto il perno attorno al quale si erano poi aggregate tutte e orbitavano tutte queste cittadini che si sono impegnati in prima persona per, ed è tuttora questo il Partito Democratico a Silvi, per portare Silvi ai livelli che merita. C'è stato un grande lavoro in questi quasi 3 anni, 33 mesi se non ricordo male. Quindi vogliamo continuare ancora, perché ci crediamo, vogliamo continuarci insieme ai cittadini. Spesso c'è stato rimproverato che abbiamo comunicato poco, abbiamo comunicato male, ed è un errore che ci riconosciamo, sicuramente ce lo siamo detti tante volte. però non si può essere sempre perfetti e sicuramente in questo miglioreremo. Per gli aspetti tecnici avevamo preparato anche qualcosa, però credo che forse sia il caso di riprenderlo poi con un incontro a parte, magari un convegno, un dibattito, così magari avremo anche più tempo e un luogo idoneo. Quindi non passo la parola agli ex assessori, qualcosina avevano preparato. E niente, voglio comunque ringraziare innanzitutto di nuovo la presenza della stampa oggi qui a Silvi, voglio ringraziare l'assessore Dino Pepe, il consigliere regionale Luciano Monticelli, tutti i cittadini intervenuti. Mi fa piacere che ci siano anche esponenti politici di altri partiti di movimento, di altri movimenti, perché questo significa che evidentemente qualcosa di buono lo stiamo facendo, viene percepito come tale e che c'è l'interesse mi auguro, a collaborare anche insieme per il futuro. Ripeto, questo deve essere il ruolo di un partito, soprattutto in realtà come quella di Silvia. Ringrazio anche il Bar Miró che ci ha ospitato sempre in maniera molto gentile, puntuale e professionale, nella persona del titolare di Rovolo. Vi do appuntamento a presto alle prossime iniziative, perché ripartiamo, premesso che non ci siamo mai fermati, ma ripartiamo da oggi e vogliamo ripartire con Luciano mi ricorda ancora. Abbiamo preso 375 mila euro dalla Regione Abruzzo come area marina protetta, e venerdì prossimo ci sarà una conferenza stampa, giusto? Presso il Circolo Nautico. A che ora, Presidente? Alle ore 11, per cui siete tutti quanti invitati venerdì prossimo alle 11 al Circolo Nautico per la presentazione di questo ulteriore progetto e finanziamento ottenuto dall'area marina, ma quindi che avrà ricadute anche per Silvi. Ci sarà anche il commissario, mi dicono. E chiudo ricordando due appuntamenti: uno che è questo fine settimana a Silvi Paese, dove abbiamo una tappa nazionale di un campionato italiano di mountain bike, giusto? E che Ciclocross, che ci ha consentito di recuperare delle zone bellissime di Silvi Paese, la strada del Pisciarello, e soprattutto portare all'attenzione, alla ribalta nazionale, questo gioiello che abbiamo a Silvi. Grazie all'intuizione, grazie anche qui di Vito. All'intuizione di Vito, partipino che grande Vito, anche qui con tenacia ha portato avanti questo progetto. E poi sempre ci rivediamo per la festa di San Leone tutti quanti a Silvi Paese con un ulteriore appuntamento. La voglia di fare e la voglia di fare soprattutto fatti concreti da parte di questo gruppo c'è, e chiediamo ovviamente come sempre la collaborazione di tutti i cittadini di buona volontà. Grazie e buona giornata. Lui è più alto in grado, prima parla lui, non io.